Molte persone, forse anche spinte da certi partiti politici che si ritengono seguaci di Cristo, stanno rumoreggiando per la necessità di una laicità nel governo e lanciando proposte per un laicismo nella vita sociale. Con il termine laico si intende tutto ciò che non appartiene allo stato clericale, cioè religioso. E con il termine laicismo, di conseguenza, ci si rifà in genere ad ogni affermazione di pensiero o attività che non abbiano elementi religiosi. Questo desiderio di laicità o di laicizzare ogni cosa è la naturale conseguenza di un percorso che il popolo italiano sta affrontando. Fino a qualche decennio fa il cattolicesimo aveva una piena egemonia sul pensiero degli italiani, la quale si ripercuoteva in ogni settore della vita pubblica, come la cultura, lo spettacolo e l'istruzione. Ma nel XXI secolo ormai sembra che questa supremazia stia svanendo lentamente per lasciare posto ad altre culture religiose, tra le quali, non certamente nascosta, quella musulmana. Perciò oggi assistiamo ad un vero ed insolito attacco alla cultura del cattolicesimo sferzato da tutte le religioni. E se anche la musulmana è quella che grida di più, nel coro vi sono anche i protestanti con tutte le varie denominazioni e i testimoni di Geova, tanto per citare alcune voci. Perduta quella sicurezza religiosa comunque recata dall'egemonia esercitata dal cattolicesimo, gli italiani si sono trovati all'improvviso come smarriti, simili a bambini che all'improvviso non hanno più i genitori. E poiché il cattolicesimo romano non ha saputo dare alternative rassicuranti, gli italiani si sono trovati spaesati e delusi in materia di religione. Si sono trovati spaesati perché le loro guide religiose non hanno più voce autorevole. Sono delusi perché pensavano che il cattolicesimo fosse una religione che dava comunque quella sicurezza della quale tutti abbiamo bisogno. Così, in questo quadro di persone smarrite, sia chi è deluso e non ha idee chiare, sia chi le ha per raggiungere un suo obiettivo, meno come i musulmani che sono desiderosi di imporre la loro fede, meno tutti sono d'accordo nella richiesta di uno Stato laico, pensando in questo modo di risolvere il problema religioso. Dato che non vi è una sola religione giusta, meno così pensano i delusi, meno, e dato che per ora non possiamo andare al governo, meno, così pensano i musulmani, meno, allora la soluzione migliore è avere uno Stato che non abbia elementi religiosi. Le leggi civili, si pensa, non devono essere influenzate da nessun codice morale che si rifaccia a qualsiasi pensiero religioso. Solo così, si continua a sostenere, esiste uno Stato laico. Tra le tante chimere o castelli in aria inseguiti dall'uomo rientra la concezione di uno Stato laico in senso assoluto. Innanzitutto non esiste il laicismo a livello puro. Per quanto certi uomini di pensiero, le idee dei quali hanno sicuramente condizionato la società, abbiano insistito che la coscienza è solo il risultato di una cultura assimilata, in ogni essere umano pensante e sano di mente vi è la consapevolezza che alcune cose sono giuste e altre vere. Questa meno, anche se ormai è tanto scontato che non ci facciamo più caso, meno per quanto se ne dica è una valutazione morale. Nessuno di noi compie un'azione senza essere condizionato da una legge morale intrinseca, perché se così non fosse, farebbe quello che vuole e lascerebbe fare agli altri quello che vogliono. Una dimostrazione di questa realtà è fornita anche proprio da coloro che vogliono uno Stato laico. Queste persone non desiderano tanto uno Stato laico perché sono a favore della laicità in sé, ma poiché si attengono a dei codici morali personali, ritenendo di conseguenza ingiusto che lo Stato sia a favore di una qualche corrente religiosa particolare, e non condividono che uno Stato parziale si intrometta nell'ambito etico. Di Stato laico si potrebbe anche parlare, se per laicità di uno Stato si intende quell'espressione culturale che non nega le diversità delle fedi e dà ad ogni cittadino la libertà di essere membro di libere associazioni, anche religiose, le quali hanno relazioni scambievoli nello spazio pubblico, e, interagendo di comune accordo, arrivano a garantire e favorire quel legame necessario alla vita comunitaria. Il problema sarà la concezione di questo Stato laico. Esso si può vedere in due modi. O si punta sul modello comunitarista, che formalmente riconosce appieno tutte le diversità religiose e culturali, oppure si considera il modello assimilazionista, che formalmente non riconosce alcun culto, ma che di fatto li riconosce tutti sotto forma di associazioni culturali, facendo sì che tutti possano convivere civilmente nonostante le diversità, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. La differenza sostanziale tra i due modelli è che il primo mette l'accento sul riconoscimento dei gruppi costituiti in quanto tali, così da poter anche rendere leciti i loro punti religiosi, mentre il secondo modello ritiene che la cittadinanza abbia la precedenza sull'appartenenza alla comunità, intendendo con questo che la fede religiosa dell'individuo è da considerarsi lecita e giusta solo in relazione al beneficio che questa reca alla società alla quale appartiene. In questo caso il cristianesimo come fede non ha nulla da temere perché ha risaputo che dove arriva la fede cristiana arriva anche il benessere dell'individuo e il progresso della società. Colui che ha posto fede in Cristo, come deve relazionarsi con la laicità dello Stato e soprattutto come deve vivere da laico o da credente. Coloro che sono increduli ovviamente vorrebbero che il cristiano vivesse senza proporre nessuna fede, perché meno sempre, secondo loro, meno la religione è l'oppio dei popoli. Che le religioni abbiano scandalizzato molti è un dato di fatto che non si può negare, ma non si può neppure negare che agli uomini è impossibile vivere senza pensare o avere il dubbio in merito all'esistenza di una qualche entità superiore. Sono troppi gli atei o gli increduli che si dicono tali, i quali in certe drammatiche circostanze si vedono rivolgere implorazioni a un'entità superiore. Purtroppo a loro sconosciuta a causa della loro trascuratezza nel ricercarla. Poi vi sono gli integralisti che non vorrebbero che i cristiani professassero l'unicità della loro fede, questo perché non è gradevole sentirsi dire che la verità è la sola persona di Gesù, e se Gesù è la verità loro sono dalla parte dell'errore. Tale dichiarazione non piace e neppure si può sopportare. Sapere di essere nell'errore è un disagio che solo gli onesti riescono a tollerare. Perciò, in nome della laicità, il credente trova ad avere ostacoli ovunque, anche se ciò che accade non è sorprendente. Infatti, il mondo civile mediterraneo del primo secolo era un caleidoscopio di pluralità religiosa e culturale di gran lunga maggiore di quella da noi sperimentata oggi. Nel bel mezzo di tutto questo i cristiani, con coraggio, proclamarono la persona storica di Cristo Gesù, l'unica verità finale, come unico salvatore. I cristiani di oggi affrontano una sfida simile, e se non sono pronti ad avere un altrettanto simile coraggio, verranno meno alla loro chiamata di testimoni. Forse il cristiano allora viene meno al principio che prima di essere tale deve essere un cittadino della sua patria terrena? Il cristiano nell'essere tale non si identifica più con il popolo al quale appartiene? La risposta è sì e no. Sì, perché colui che vive da cristiano è prima di tutto cittadino del popolo al quale appartiene, dato che è equipaggiato di tanta umanità verso il prossimo e colui che ama il nemico al punto di ricambiare il male che riceve con il bene. Il cristiano, quando vive come tale, è onesto, leale, sincero, lavora onestamente e soprattutto è sottomesso alle autorità, perché i veri cristiani di ogni epoca hanno sempre rispettato le autorità di ogni genere. No, perché non si identifica nella cittadinanza, quando si tratta di seguire il male che compie la maggioranza, quando si uccide, si inganna, quando vi è in subordinazione ai superiori. Per chi ha posto fede in Cristo, essere cittadino e cristiano è un tutt'uno, anche perché non si può essere cristiani senza essere dei veri cittadini, ma soprattutto non si può essere dei veri cittadini senza essere dei veri cristiani. Non è il cittadino che fa il cristiano, ma è il cristiano che fa il cittadino. Dunque, il cristiano può essere a favore dello Stato laico se questo lascia la libertà a quei culti che non danneggiano l'uomo come persona, e sono a favore del benessere della società, quando per laicità non significa ateismo, bensì reale e totale parità di diritti, ma non sarà d'accordo quando questa laicità è contraria all'etica di Dio. È possibile vedere questo principio in un episodio della vita di Gesù, quando i suoi avversari gli fecero una domanda a tranello, puramente laica, cioè se era giusto pagare il tributo a Cesare. In quell'occasione Gesù rispose: «Mostratemi un denaro, di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Prendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Luca 20.2.4.25. Dando la riposta, Gesù poteva benissimo riferirsi solo alla necessità di un rapporto civile, ma egli introdusse, con sorpresa dei suoi interlocutori, anche il discorso di Dio, perché come l'uomo ha l'obbligo di essere sottomesso alle autorità civili, altrettanto è obbligato a essere sottomesso all'autorità divina. Uno Stato laico ha il diritto di essere tale fino a quando non viola la morale di Dio, ma nel momento che propone o impone regole con un'etica contraria al volere che Dio ha espresso nella sua parola, allora il cristiano è chiamato ad ubbidire prima alle leggi divine. Prendiamo ad esempio gli omosessuali. Lo Stato ha il diritto di stabilire con chiunque dei rapporti a livello civile e giuridicamente laici, e quelli con gli omosessuali rientrano in questo gruppo. Ma lo Stato laico non ha il diritto di dichiarare matrimonio ciò che matrimonio non è. Inoltre non può trattare le coppie di fatto come una qualsiasi coppia composta da un uomo e una donna regolarmente sposati. Qualcuno potrebbe far presente che questo è un giudizio morale del quale lo Stato laico non deve curarsi, ma, come abbiamo detto all'inizio, una laicità pura non esiste, e lo dimostra lo stesso Stato che si dichiara laico. Se l'abuso dei minori, la violenza sessuale, il furto, l'incesto, la menzogna e la poligamia sono punibili dalla legge italiana e non in altri stati, queste punizioni non sono forse scaturite da un'etica? Come possono uno Stato e di conseguenza i funzionari addetti al rispetto delle leggi applicare delle norme a prescindere da un codice morale? Che ci sia una moralità soggettiva, implicita nell'applicazione delle leggi civili, lo dimostra il fatto che non tutti gli studiosi di diritto sono d'accordo per quanto concerne le sentenze emesse. Perciò il credente non si lascerà a sua volta abbagliare da una presunta laicità totale, perché, per quanto se ne dica, ogni essere umano di fronte a qualsiasi giudizio è condizionato dai propri valori morali. Gesù ha subito una condanna a morte, ma mentre per i religiosi del tempo è morto come un bestemmiatore, per Pilato Gesù era un giusto. E per i credenti Gesù morì come il figlio di Dio. Un cristiano accorto deve essere preparato al fatto che, in nome di una laicità e di un'armonia sociale e razziale in tempi sempre più brevi, sarà ritenuto illegale il suo predicare Gesù Cristo quale unico Salvatore e Dio. Quel giorno allora capirà molto meglio fino a che punto sarà opportuno rendere a Cesare quello che è di Cesare, ma rendere anche a Dio ciò che è di Dio. Febbraio 2007. Ellero.